A parte il mio lavoro come barista, molte volte arrivano che hanno bisogno di caricare il cellulare per comunicare con la famiglia. Arrivano bambini, molte volte piccoli, che non hanno i ricambi con i pannolini, perciò abbiamo fornito un fasciatoio nel bagno per cambiare questi piccoli angioletti. Molte volte arrivano in pieno inverno bambini o adulti con l'infradito e si è cercato di trovare delle scarpe, dei vestiti. Arrivano anche affamati senza soldi e mi è stato insegnato di dare da mangiare agli affamati, di dare da bere agli assetati e io sto facendo questo. Stai facendo questo, però ad alcune persone non piace, hai ricevuto anche insulti e boicottaggio. Ho ricevuto insulti dagli italiani perché mi chiedono invece di aiutare i neri, devo aiutare gli italiani, ma signore io nel mio piccolo le tasse le pago. Andate a Roma a chiedere che fine fanno i soldi che io verso per gli italiani. Poi se c'è gente che è sfortunata, che io non riesco a girarmi dall'altra parte, proprio ho bisogno, è un mio bisogno di aiutare comunque chiunque, indipendentemente dal fatto che siano neri, ho anche aiutato delle persone europee, persone italiane, ma il fatto che in questo momento c'è un afflusso di immigrazioni africani do più all'occhio, ecco. Il bar è iniziato ad avere problemi economici e al punto che rischiava la chiusura. Sì, ho iniziato a avere dei problemi perché non entrando più i miei cittadini di Ventimiglia, a parte i solidari, a parte i volontari, a parte le varie associazioni, ma il cittadino normale non entra più e io in questo momento ho delle grosse difficoltà a mandare avanti l'attività. Per questo è stata lanciata anche una campagna di raccolta fondi che in soli 6 giorni ha quasi raggiunto i 20.000 euro. Te l'aspettavi? No, assolutamente no. Questo comunque, a parte che approfitto anche per ringraziare tutti coloro che hanno aderito, che mi hanno sostenuto, mi hanno dato anche la forza di continuare avanti. Sicuramente io per tutto il 19 sarò qui a aiutare chi ha bisogno. E speriamo anche, insomma, anche più avanti. Beh, intanto garantiamo il 19. Certo. 2019. Poi sicuramente qualcosa cambierà, perché bisogna anche conoscere le vicende, non è solo il nero, ci sono donne che vengono violentate, ci sono bambini che vengono sfruttati, bisogna capire determinate cose, essere anche sensibile al dolore di queste persone, no? Chi non lo vive direttamente non può percepirlo, nel senso che quelli che ce l'hanno contro l'immigrazione, ecco, ma bisogna sentire la loro voce di sofferenza, di paura, perché hanno anche paura, arrivano in un continente sconosciuto, senza parlare l'italiano, lasciando alle spalle gli affetti, lasciando tutto, bisogna anche capire e essere sensibile, a mio avviso. Molti dicono che tu stai facendo una forma di resistenza, ti senti una resistente, una sorta di partigiana? Ma guarda, io non so se sono una partigiana, però io lotterò sempre fino alla fine per dimostrare che siamo tutti uguali e che la terra non è di nessuno, il mondo non è di nessuno. Ci chiedono i grossi politici, le grosse società pubblicitarie di salvare il pianeta, di salvare gli animali in via di estinzione, e poi quando qualcuno ha bisogno di un pezzo di pane, di un bicchiere d'acqua, l'uomo ci giriamo dall'altra parte? No, io non appartengo a quella categoria, assolutamente.